Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Londra, 29 aprile 2011. Quello di Kate e William è il matrimonio del secolo. L'abbazia di Westminster è gremita di 1900 invitati, mentre una Londra in festa aspetta il passaggio degli sposi. Tutto il resto è gossip. Il lato B della sorella Pippa, il bacio sul balcone di Buckingham Palace, il menù del ristorante. Eccola qui, ecco la sposa che sta infilandosi nella Rolls Royce reale che le è stata mandata da nonna Elisabetta. Non possiamo vedere se non male da questa prospettiva l'abito bianco, e sapete che quest'abito bianco era uno degli ultimi due misteri, per così dire, gli ultimi due segreti di questo matrimonio sotto gli occhi del mondo. I due novelli sposi si erano conosciuti nel 2001 all'Università di St. Andrews, Scozia. Le male lingue vogliono che lei abbia scelto di studiare lì proprio nella speranza di accalappiare il buon partito. Fatto sta che i due prima diventano amici e poi si fidanzano. Succede spesso di incontrare l'anima gemella all'università. Le statistiche dicono, ad esempio, che negli Stati Uniti è nato così il più alto numero di coppie sposate. Forse perché si ha la stessa età, perché si cercano le stesse esperienze e gli interessi si assomigliano, nelle aule accademiche si creano molti rapporti duraturi, non solo storie d'amore, ma anche amicizie e sodalizi creativi. Essere ammessi alla prestigiosa Università di Harvard, Massachusetts, non è cosa per tutti. Per questo avere una riga nel curriculum che dice che l'hai frequentata ti apre molte porte. Nel 2004, tra gli studenti più bravi nel campo della matematica, ci sono Eduardo Saverin e Mark Zuckerberg. Dimestichezza con il computer, poca scioltezza nell'approccio con le ragazze, aspetto che li qualifica come nerd. Zuckerberg ha un'idea geniale. Mette a punto TheFacebook.com, una directory che permette agli studenti di Harvard di condividere informazioni. Saverin, di famiglia benestante, ci mette i soldi per mantenere il server. Tra i due, poco a poco, nascono le fratture insanabili raccontate nel film Social Network di David Fincher. Ma nel frattempo, Facebook è già un successo destinato a spopolare in tutto il mondo. Che scrivi? Situazione sentimentale. Mi piacciono. È questo che smuove la vita all'università. Vuoi fare sesso o non vuoi? Per questo la gente si sceglie certi corsi o si siede in un posto invece di un altro. E diciamo che, nella sua essenza, è questo che The Facebook sarà per loro. Si connetteranno perché dopo le patatine e i pasticcini c'è la possibilità che riescano davvero a scopare. Conoscere una ragazza, sì. È veramente figo. E ci siamo. Che vuoi dire? È pronto. È pronto? Sì, adesso. Ho finito. Tom Rollins e Ed Simmons sono due illustri sconosciuti, se non li si associa al nome del loro gruppo, i Chemical Brothers. Si incontrano all'Università di Manchester a cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e tra una lezione e l'altra incominciano a lavorare insieme sui primi remix che sfoceranno nell'album che contiene Chemical Beats, pietra miliare della dance elettronica destinata a far saltare milioni di giovani sparsi su tutto il globo. La storia che raccontiamo oggi a Destini Incrociati parte dalle panchine sparse per i prati dell'Università di Oxford, dove due geni della comicità hanno mosso i primi passi. Insieme, uno sceneggiatore e l'altro attore, hanno dato vita a un personaggio di successo planetario, l'imbranato Mr. Bean. Loro si chiamano Richard Curtis e Rowan Atkinson. Richard Curtis, Rowan Atkinson. So hopeless to define why you jump to close the blinds. You know I'd help you if I could, but both my arms are made of wood. Just don't mean the things I say. Quando Rowan Atkinson viene alla luce in un gelido 6 gennaio del 1955, sono soltanto due anni che è salita al trono la regina Elisabetta, nonna del già citato principe William. Il primo ministro Winston Churchill, invece, che aveva giocato un ruolo chiave durante il secondo conflitto mondiale, si sarebbe dimesso pochi mesi dopo dal suo incarico, lasciando il posto al suo delfino Anthony Eden. Siamo a Consett, una cittadina di 30.000 anime nella contea di Durham, nord-est del paese. Case basse e ordinate, negozi dalla porta colorata, diversi pub di gusto tradizionale sparsi in ogni strada. La famiglia Atkinson è numerosa, papà Eric fa il direttore d'azienda, ma preferisce di gran lunga passare il suo tempo nei campi, mentre mamma Ella May si dedica alla casa e alla crescita dei ragazzi. Un impegno a tempo pieno, visto che sono in quattro. Paul, che morirà ancora bambino, Rodney, che diventerà un economista euroscettico e politico, Rupert e infine il più piccolo, Rowan, che viene spesso coccolato e protetto, ma non è esente dai dispetti dei suoi fratelli. Quattro maschi in casa, più mio padre. Poverina mia madre. La adoravamo, ma ogni tanto non ci sopportava più, sempre a rincorrerci, litigare. Però ho la fortuna di essere cresciuto in una famiglia molto unita. Negli stessi anni, ma a migliaia di chilometri di distanza, il futuro sceneggiatore Richard Curtis sta trascorrendo l'infanzia in una casa sul mare. Wellington, capitale della Nuova Zelanda, ex colonia britannica. Affacciata sullo stretto di Cook, il passaggio che separa le due isole principali che compongono lo Stato, Wellington è la città capitale più meridionale del mondo ed è nel contempo anche la più lontana da qualsiasi altra. Clima moderato tutto l'anno, 400.000 abitanti, culturalmente vivissima e circondata da parchi naturali. In poche parole, un paradiso. Forse è per questo che la famiglia Curtis, quando deve spostarsi per il lavoro di papà, non è per niente contenta. Papà faceva il manager e ci siamo spostati spesso. Trasferirci da Wellington alla Svezia è stato un vero shock. E poi da lì siamo andati nelle Filippine. Ho capito col tempo che spostarsi di continuo, anche se per un bambino come me era un problema, perché ogni volta dovevo lasciare gli amici, in realtà è stata una grande fortuna, perché mi ha dato quell'inestimabile ricchezza che è l'apertura mentale. Richard è un bambino sveglio e molto curioso. Biondino, carnagione chiarissima, eleganza tipicamente inglese fin dalla tenera età, è un vulcano sempre pronto a far domande su qualsiasi tema. E quando la mamma lo chiama perché è pronto in tavola e lui non risponde, sa per certo che è immerso nella lettura di qualche grosso volume sull'universo, uno dei suoi argomenti preferiti. Suo fratello più piccolo, Jamie, adora sedersi di fianco a lui e girargli le pagine per farsi raccontare le meraviglie delle stelle e dei pianeti. Richard ha 11 anni, quando la sua famiglia si trasferisce definitivamente in Inghilterra, e lui inizia a frequentare la Pepplewick School di Ascot, località che durante il celebre Royal Ascot attrae l'attenzione di tutto il mondo sia per la gara tra i purosangue che per gli stravaganti cappellini delle signore. Mi sono abituato presto a vivere in Inghilterra. Non avevo il problema della lingua ed ero in un'età in cui tra scuola e giochi era facile farsi degli amici. In più avevo tutto quello che mi poteva offrire una città come Londra, ma nella quiete della campagna. Ero felice lì. Neanche a dirlo, è uno studente modello, tanto che riesce a entrare nella prestigiosa Harrow School. Tipico edificio dai mattoni rossi, prati con l'erba tagliata perfettamente e attrezzature sportive all'avanguardia, sono stati molti gli studenti prima e dopo Curtis che, aggirandosi con l'uniforme per questi corridoi, hanno messo delle solide basi per il loro futuro. Un primo ministro inglese, Winston Churchill, e uno indiano, Jawaharlal Nehru, il re Hussein di Giordania e suo cugino, Faisal II, l'ultimo sovrano dell'Iraq. Oltre a numerosi pupilli delle ricche famiglie indiane e del Medio Oriente, il poeta Lord Byron, i campioni di Wimbledon Spencer Gore e Frank Haidu, il fantino John McCracken e il cantante James Blunt. Shine on, just shine on. With your smile just as bright as the sun. Cause they're all just slaves to the gods they've made. But you and I just shone, just shone. Mentre Richard Curtis passa le sue giornate nella prestigiosa Harrow School a studiare davanti a una luminosa bow window, il suo futuro amico Rowan Atkinson accresce le sue conoscenze nelle antiche scuole della contea di Durham. Mi manca Durham. Quando sto lontano per un po', perché c'è una dimensione molto umana. Come studente sono sempre stato molto bravo, più nello studio che nelle relazioni, per la verità. Perché rimanevo un po' in disparte, facevo fatica a parlare per primo con qualcuno. Però sono stati anni molto belli. folti capelli scuri, sguardo sornione e spiccata inclinazione per la matematica, Atkinson si diverte più con i calcoli che con la lettura, anche se è già un grande appassionato di teatro e di cinema. Cresciuto in una famiglia numerosa nella quale è sempre difficile ritagliarsi i propri spazi in solitudine, per vedere i film che ama si è visto costretto a contagiare tutti i suoi fratelli. E così, uno seduto sul divano, un altro su una poltrona, un altro abituato a starsene coricato sul tappeto, la sera guardano tutti insieme i film comici. Sono Stanlio e Ollio quelli più divertenti. La cosa che colpisce Rowan è che riescono a farlo ridere anche standosene zitti, semplicemente con le loro buffe espressioni. Salve bambole, ho bisogno di voi. Cosa desidera? Vuol parlare con qualcuno forse? Sì, e se no perché sarei venuta in questa topaia? A levare le ragnatele? Cerco il signor Hardy e voglio essere ricevuta subito, chiaro? Va bene. Ehi, cosa avete da guardare voi? Forza, lavorate! Sbrigati! Torno subito! Stanlio e Ollio sono due incredibili clown cinematografici che si spartiscono i ruoli in una coppia comicamente esplosiva, in grado di mettere in scena gag esilaranti, incidenti, abitudini bizzarre, fallimenti e tentativi di recupero. Atkinson non lo ammette neanche a se stesso, calato com'è nel ruolo dello studente modello che fa fatica a lasciarsi andare. Ma gli piacerebbe moltissimo essere in grado di divertire le persone. Ero alle superiori e la matematica era il mio forte. Non studiavo perché ero obbligato. Mi piaceva davvero e non facevo nessuna fatica. Passavo ore sui libri. La mia vera distrazione erano le comiche. E ricordo che qualche volta infilavo la penna nel quaderno, lo chiudevo e mi mettevo davanti allo specchio a imitare i movimenti di Ollio. Naturalmente, se qualcuno entrava, smettevo subito. Mi sentivo in grandissimo imbarazzo. Rowan Atkinson e Richard Curtis, a 20 anni, sono due ragazzi diversissimi. Genio della logica il primo, fantasioso e accanito lettore il secondo. Schivo e timidissimo, con un gusto per l'abbigliamento retro Atkinson, socievole e affabile con un'eleganza innata a Curtis. Inglese fino al midollo uno, di spirito cosmopolita l'altro. Eppure, grazie a una sorpresa del destino, entrambi scelgono di assecondare i loro talenti alla storica Università di Oxford. 1975, Oxford. Adagiata sulle sponde del Tamigi, come la non lontana Londra, Oxford avvolge i suoi oltre 115.000 abitanti e i numerosi turisti con una atmosfera tipicamente British. Il suo nome deriva dal luogo ideale per attraversare il fiume, a Ford for Oxen, guado per i buoi. A Oxford si tenevano lezioni già dall'undicesimo secolo, ma presto gli studenti divennero così tanti che si resero necessarie le prime residenze, che più tardi sarebbero state chiamate college. Ed è proprio qui che approdano in facoltà diverse, ma nello stesso semestre, Rowan Atkinson e Richard Curtis. Tutti e due, come si diranno più tardi, hanno visto più volte Noi siamo le colonne, con Stanlio e Ollio, che proprio Oxford è ambientato. Dunque siamo a Oxford. Sì, e credo che ci piacerà di rimanere. Scusate, ma non avete mica sbagliato di collegio? Beh, non è Oxford, Fitz. Sì, ma la vostra tenuta è del collegio di Eton. Già, ma è sempre una tenuta da collegiali. Dico bene, caro Ollio. Che cosa ti avevo detto io? È stata una tua sciocca idea vestirci così. Ma questo spalancavano 30 d'occhi. Comunque, amici, se io posso esservi di qualche aiuto, sono interamente a vostra disposizione. Grazie mille. E dove si potrebbe trovare il capo degli insegnanti? Oh, il magnifico rettore, ma vi accompagnerò io stesso da lui. Oh, grazie. Ma a proposito, avete un lascia passare? Lascia passare? Eh sì, occorre un piale per vederlo. Ma chi ce lo può dare? Il professore dei permessi. Rowan Atkinson si iscrive alla facoltà di ingegneria elettronica. Attento studente, sempre avanti sul programma, se ne sta seduto in disparte bloccato dalla timidezza. Richard Curtis, invece, di intelligenza altrettanto brillante, frequenta i corsi di lingua e letteratura inglese. Al di là di quelle che sono le materie di studio, comincia a scrivere, nella tranquillità della sua stanzetta del college, i primi racconti umoristici. Per ora è un divertimento tutto suo, ma presto, grazie all'incontro con quello che diventerà il suo migliore amico, si aprirà per lui la strada della comicità. Everywhere I go. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo alla metà degli anni 70, nel prestigioso College di Oxford, una delle più celebri università dell'Inghilterra e del mondo intero. Si sono appena iscritte due nuove matricole, Rowan Atkinson a Ingegneria Elettronica e Richard Curtis a Lingua e Letteratura Inglese. Il primo, membro di una famiglia numerosa, viene da Consett, una cittadina di 30.000 anime nella contea di Durham, nord-est del paese. Andatura dinoccolata, faccia buffa, mente matematica e una timidezza che lo porta a stare spesso in disparte è molto diverso caratterialmente dal secondo, che invece è abituato a viaggiare fin da piccolo, spostandosi da un capo all'altro del mondo. Quando si incontrano per la prima volta, presentati da amici comuni, passano tutta la serata a parlare di ciò che li fa ridere. Curtis, che ha cominciato a scrivere i suoi primi racconti umoristici, rimane sorpreso quando sente che quel futuro ingegnere, che in apparenza è tranquillo e serissimo, è in realtà un profondo conoscitore della comicità. Sono molti i comici che mi hanno ispirato. Uno appartiene all'epoca del muto ed è Stan Laurel, mentre tra i comici post-bellici, quello che a livello personale ha avuto più influenza, soprattutto a livello di comicità visiva, è Jacques Tati con il suo Monsieur Hulot, che ho visto a 17 anni. Ho sempre amato anche i fratelli Marx, che quando si trovano di fronte a una regola cercano immediatamente il sistema di aggirarla. Provo simpatia soprattutto per Harpo, che mi sembrava il più interessante e il meno sfruttato per via della caratteristica verbale predominante di Groucho. Che ci crediate o no, di Buster Keaton non ho visto niente, mentre di Charlie Chaplin ho visto parecchio, ma non tanto quanto mi piacerebbe. Il grande dittatore è un capolavoro. Mi dispiace, ma io non voglio fare imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Ma noi l'abbiamo dimenticato. Curtis decide di far leggere ad Atkinson tutto ciò che ha scritto e lui, in cambio di questa fiducia, gli dà ottimi consigli per migliorare i testi. Ed è così che Richard, per la prima volta, si accorge che l'amico non soltanto è un cultore dell'umorismo, ma possiede anche un innato talento comico. Rowan sulle prime non ci crede, è discreto, sulle sue, fa fatica a lasciarsi andare ed è già un miracolo che riesca a improvvisare qualche gag con qualcuno che non sia il suo specchio. Ma Curtis insiste, vuole che sia lui a mettere in scena gli sketch che insieme stanno preparando. Rowan era incredibile, gli bastava un'espressione per far ridere e nemmeno se ne rendeva conto. Sono riuscito a convincerlo ed è servito anche per dargli fiducia in se stesso. Stare su un palcoscenico, per quanto piccolo, con davanti a un pubblico di studenti come te è una grande terapia, forgia il carattere. Rowan ha cominciato a mettere in scena gli sketch che scrivevamo insieme. La gente moriva dalle risate e lui era sempre più sicuro. L'Università di Oxford è un micro universo che offre infinite possibilità. Chi è bravo nello sport ha ottime palestre e campi per allenarsi. Chi vuole fare una ricerca approfondita ha a disposizione una delle più fornite biblioteche del Regno Unito. E chi invece scopre di avere una predisposizione per lo spettacolo può entrare a far parte dei vari gruppi teatrali. Curtis e Atkinson, senza dubbio votati alla commedia, scelgono il gruppo comico Oxford Review, che le cronache raccontano sia stato fondato intorno al 1952 da due signori un po' pazzi decisi a partecipare allo storico Festival di Edimburgo, dove ogni estate persone provenienti da tutto il mondo si radunano per godersi 3 settimane all'insegna del meglio dell'opera lirica, musica, teatro e danza in campo internazionale. È proprio questo palco l'ambizioso primo obiettivo della nostra nostra strana coppia. Ormai lavoravamo insieme tutti i giorni ai nostri sketch e avevamo un bel po' di materiale. Io scrivevo. Rowan mi aiutava nella scrittura stando in mezzo a una stanza a improvvisare. Spesso c'era anche la nostra amica Helen Fielding, che anni dopo avrebbe scritto il diario di Bridget Jones. È così, con naturalezza, che sono nate le cose migliori. Gli spettacoli della Oxford Review nei pub, nelle grandi sale dei college e nei locali della zona sono un appuntamento fisso per chi vuole ridere in città. Non a caso il gruppo ha partorito nel corso degli anni molti comici e umoristi. Solo per citarne alcuni, il regista Ken Loach, l'eclettico autore Alan Bennett, la scrittrice di chick lit Helen Fielding e Michael Palin e Terry Jones, membri dei celeberrimi Monty Python, inventori di sketch entrati nella storia. Buon pomeriggio e benvenuti all'affollatissimo Stadio Olimpico di Monaco per il secondo tempo di questa emozionante finale. Sta uscendo la Germania guidata dal suo capitano Nobby Hegel. Oggi pomeriggio parte favorita anche perché si è conquistata l'attenzione della stampa con la sua problematica. E adesso vediamo lo schieramento. La Germania gioca 4-2-4, Leibniz in porta. In difesa Kant, Hegel, Schopenhauer e Schelling. All'attacco Schlegel, Wittgenstein, Nietzsche, Heidegger. Al centrocampo Beckenbauer e Jaspers. La presenza di Beckenbauer è una vera sorpresa. Il quasi ingegnere Atkinson e il letterato Curtis dedicano la maggior parte del loro tempo all'invenzione di stravaganti personaggi da portare in scena e vengono premiati proprio al Festival di Edimburgo, quando un dirigente della BBC Radio nota il loro lavoro e gli propone di scrivere un programma. Neanche a dirlo, i due accettano entusiasti. È il 1978, entrambi hanno conseguito una laurea ad Oxford, ma l'unica cosa che davvero vogliono fare nella vita è dedicarsi insieme alla commedia. D'altra parte, lo humor inglese ha una lunga tradizione. Tagliente, puro sarcasmo, spesso acquista note surreali. Gioca con il linguaggio, deforma i fatti minimizzando quelli grandi e ingigantendo quelli piccoli. Il tutto in una atmosfera apparentemente seria, spesso estremamente realistica, in modo che lo spettatore alla fine è indeciso tra scoppiare a ridere oppure rimanere sconcertato. Ci sono, come nelle altre culture, allusioni sessuali, ma sempre con una certa eleganza, mai in modo del tutto esplicito. Le battute vanno colte con attenzione perché sono sottili, ma forse è per questo, se sono anche spietate, perché non c'è il timore da parte di chi le fa di offendere in modo diretto. Freddure, situazioni paradossali, silenzi imbarazzanti e volti imperturbabili anche quando vengono dette cattiverie che in molti paesi verrebbero censurate. Sono questi i riferimenti di Curtis e Atkinson. Io e Richard ci siamo sempre divertiti a guardare e riguardare pezzi di storia della comicità, grandi classici, soprattutto inglesi. Le comiche di Stanley Ollio, la poesia di Charlie Chaplin, le follie dei Monty Python, ma anche la goffaggine di Benny Hill. E tra i nostri colleghi di oggi amiamo molto le provocazioni di Sacha Baron Cohen. The Atkinson People, testi di Curtis e voce di Atkinson, comincia alla radio e poi, dato il grande successo, passa alla televisione. Ogni settimana il Mattatore impersona un finto personaggio famoso che viene raccontato in chiave satirica. È il loro primo programma e il trampolino di lancio per una coppia esplosiva, nella quale, curiosamente, quello più timido dei due è il volto, mentre quello più disinvolto sta dietro alle quinte. Non ringrazierò mai abbastanza Richard, non solo per il lavoro che ha fatto, ma per il grande amico che è sempre stato e che ancora è. Tra noi si è creato un feeling immediato che mi ha permesso di sciogliermi. Non ho mai avuto dubbi, è tutto merito di Richard se faccio il comico. Quello che ancora Atkinson non può sapere è che proprio grazie a Curtis sta per diventare uno dei più famosi comici di tutti i tempi. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo alla fine degli anni 70 e due studenti di Oxford stanno cambiando il destino l'uno dell'altro. Si chiamano Rowan Atkinson e Richard Curtis e hanno scoperto che insieme hanno una potenza comica esplosiva. Ingegnere tranquillo e posato il primo, talentuoso scrittore il secondo, hanno cominciato a lavorare insieme agli sketch per il gruppo teatrale Oxford Review. Sono approdati al Festival di Edimburgo e un dirigente della BBC, deciso a non lasciarseli scappare, gli ha proposto un programma. Atkinson, di natura riservatissimo, grazie all'amico che lo guida dietro alle quinte, è riuscito a sciogliersi a tal punto da diventare un attore dalla presenza scenica impressionante. Ed è nato prima alla radio e poi alla televisione The Atkinson People, satira dissacrante di puro gusto british. Il passo che segue è una serie destinata a diventare un culto, Blackadder. History has known many great liars. Copernicus, Goebbels, St. Ralph the Liar. But there have been none quite so vile as the Tudor King Henry VII. Rowan Atkinson è Edmund Blackadder, un antieroe cinico e mordace, nichilista e senza scrupoli, che vuole soltanto sopravvivere e raggiungere i suoi scopi. In ogni serie, Blackadder e il suo miserabile servitore Baldrick, interpretato da Tony Robinson, vengono contestualizzati in un'epoca storica differente, sempre sommersi da guai e perseguitati dalla sfortuna. Tra gli attori c'è anche Hugh Laurie, futuro Dottor House. Si spalancano per l'ingegnere Atkinson le porte della notorietà che è probabilmente, ma senza alcuna presunzione, quello che considera il lato meno interessante del suo lavoro. Si dice che i comici siano malinconici, perfino tristi. Io credo di essere una persona fondamentalmente tranquilla e seria, ma non triste. Comunque, ritengo che questa credenza lavori a mio vantaggio. Infatti, la gente, proprio per rispetto a tale cliché, in strada non ti si avvicina, non ti disturba, perché ritiene che tu sia diverso dal comico che rappresenti e tieni molto alla tua riservatezza. Occasionalmente questo può generare anche della delusione. Quando qualcuno per strada ti dice «Salve!» e poi ti guarda con quegli occhioni che cascano per la delusione, perché costui si è reso conto che non sarà il soggetto di una gag improvvisata. Io comunque cerco sempre di essere gentile, augurandomi sotto sotto che magari si allontanino. Dopo Blackadder, sembra difficile replicare un grande successo e sia Curtis che Atkinson si chiedono se ce la faranno. Lavorano tutti i giorni insieme, gomito a gomito, scartano personaggi in cui non credono, mettono da parte gag che funzionano a metà e poi, magicamente, un giorno arriva lui, Mr. Bean. Basta una camminata di Rowan, qualche idea di Richard e il gioco con tutta la naturalezza del mondo è fatto. Nato come personaggio di cabaret, provato inizialmente sul palco per testarlo sul pubblico live, Mr. Bean, il 1 gennaio 1990, approda sul piccolo schermo, diventando protagonista di una lunga serie televisiva presto venduta in oltre 200 paesi del mondo. Maldestro e un po' repellente, Bean è un uomo medio che parla un linguaggio gutturale ridotto all'osso e per via delle movenze e del suo umorismo di tradizione slapstick, ricorda il Monsieur Hulot partorito dalla fantasia del regista e attore francese Jacques Tati. I tratti distintivi di Mr. Fagiolo, così si chiamerebbe in italiano, sono pochi. Un completo marrone sempre uguale in ogni puntata, come macchina una mini verde acido e come amico un orsacchiotto di peluche, Teddy. A volte frequenta con esiti disastrosi una ragazza di nome Irma Gobb e due amici Rupert e Hubert. Mr. Bean ha impiantato alla sua utilitaria un singolare sistema di antifurto, fatto da un lucchetto posto sotto la serratura della portiera destra e dal volante che stacca e porta con sé quando si allontana dalla vettura. Spesso l'auto è in conflitto con una Reliant Regal Supervan celeste che urta in azzardati sorpassi, spinge per farsi spazio nei parcheggi o che viene evitata dallo stesso Bean quando il proprietario la ferma per dargli un passaggio. Con Mr. Bean, il volto di Rowan Atkinson entra in tutte le case del pianeta per far ridere gli spettatori di ogni età. I'm on a mic, I make you dance, I make you funk, I make you sweat from an hour till the break is down. So, get up the wall, let's have a ball. From an hour till the morning comes and I said, have fun, go man. Do what I say. Have fun, go man. Have fun, go man. Mentre Rowan Atkinson si gode il successo che arriva dalle avventure di Mr. Bean, il suo amico Richard Curtis decide di provare a scrivere un vero film. Il budget è così ridotto che gli attori devono portarsi i vestiti da casa, ma il copione, nel quale per Atkinson è previsto il ruolo di uno strampalato prete, frutta a Curtis niente meno che una nomination all'Oscar come migliore sceneggiatura originale. Stiamo parlando di Quattro matrimoni e un funerale. Signore e signori, mi dispiace distrarvi dallo squisito dessert che avete davanti, ma come testimone dello sposo ritengo sia mio dovere fare un breve discorso. È la seconda volta che mi trovo a fare il testimone. Spero d'essere stato all'altezza della situazione la prima volta. La coppia in questione continua ancora a rivolgermi la parola. Purtroppo però, sì c'è un però, non parlano più tra di loro. Il divorzio è stato pronunciato un paio di mesi fa. Paul ha divorziato. Ah, ma mi hanno assicurato che io non c'entro nella maniera più assoluta. Evidentemente Paula sapeva che Pierce era andato a letto con sua sorella Sybil prima che io lo dicessi al pranzo di nozze. L'inatteso successo supera ogni aspettativa. Quattro matrimoni e un funerale è il primo film britannico per incassi al botteghino nella storia del cinema, con un ricavo di 244 milioni di dollari. E inaugura un nuovo corso per la commedia romantica che vede in Hugh Grant, anche lui inglese, uno dei suoi protagonisti più azzeccati. Mr. Bean, scritto come sempre a quattro mani, arriva nelle sale e rende milionari i suoi ideatori. Curtis diventa uno degli sceneggiatori più richiesti e con il suo gusto raffinato reinventa letteralmente un genere. Sono suoi piccoli capolavori come Notting Hill, Love Actually e Il diario di Bridget Jones, tratto dal romanzo di Helen Fielding, anche lei vecchia amica di Oxford. Chiederò alla portiera Bridget. Se la pianti di darmi ordini. E tu che ci fai qui? Volevo solo sapere se sei disponibile anche per battesimi e bar mitzvah, oltre che per gli anniversari. Discorso magnifico. Credevo che fossi in America. Beh, sì, ci sono stato, ma mi sono accorto di aver dimenticato una cosa importante. E che cosa? Beh, mi sono reso conto di non averti dato il bacio d'addio, posso? D'accordo, ok. All'università nascono amori e amicizie. Alcuni legami durano per poco, altri durano per sempre. Senza dubbio, alcune coppie sono scritte nel destino. Per esempio, Richard Curtis e Rowan Atkinson. Ogni volta che sono depresso per come vanno le cose al mondo, penso all'area degli arrivi dell'aeroporto di Heathrow. È opinione generale che ormai viviamo in un mondo fatto di odio e avidità. Ma io non sono d'accordo. Per me l'amore è dappertutto. Spesso non è particolarmente nobile o degno di nota, ma comunque c'è. Padri e figli, madri e figlie, mariti e mogli, fidanzati, fidanzate, amici. Quando sono state colpite le Torri Gemelle, per quanto ne so, nessuna delle persone che stava per morire ha telefonato per parlare di odio o vendetta. Erano tutti messaggi d'amore. Io ho la strana sensazione che se lo cerchi scoprirai che l'amore davvero è dappertutto.